occhi cruciar. Se crede a me, tra poco farà ritorno, ecco le cena d'amore di Monna Bianca. Al cielo capitano, poi già dopo al mare me l'ho fricato. Non lusingarmi, a te io ciò che io dico. Vuoi saper che la stella di luce è nostro luce? Solo per essa e vive, pregala tu per l'anima cortese, perché ti non cena. Il tuo perdono è certo, come favellarle e si costume io se ne mi arricciar fra quelle fronte o la consorte mia qui viva aspetta occhia aperta la via di salvazione va. All right. Thank you. Oh, faccio cosa sconta. Fatto lucidea. Thank you. nostra musa scorda, cautiveriamo nel suo spettro tutto Lo vidi il man di Cassio!